America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. معمر القذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الرؤساء. معمر القذافي ليس رئيس. La voce di un dittatore, devo dire, è inconfondibile, quella che avete ascoltato è di Gheddafi, del colonnello Gheddafi, che ieri ha parlato con toni minacciosi, aggressivi alla popolazione libica, promettendo ritorsioni durissime e creando, devo dire, un senso di preoccupazione non soltanto a Washington, ma nella comunità internazionale in genere. Sentiamo Hillary Clinton. The United States continues to watch the situation in Libya with alarm. Our thoughts and prayers are with those whose lives. Il segretario di Stato americano ha lanciato un appello molto duro. Quello che sta succedendo in Libia, soprattutto a Tripoli, è inaccettabile. L'uccisione di molti fra i dimostranti, fra la popolazione civile, non può essere tollerata e dunque occorre in qualche modo trovare una soluzione, trovare una possibilità di bloccare questa escalation, questo massacro fra la popolazione civile. Ma la risposta al messaggio di Gheddafi è stata quella dei dimostranti nella zona orientale del paese, che si sono scatenati contro di lui mentre parlava in una diretta a Tobruk. Per esempio, qualcuno ha cominciato a lanciare delle pietre contro uno degli schermi televisivi. Le notizie che giungono, ovviamente notizie frammentarie, perché solo un giornalista americano è riuscito a entrare, ma chiaramente è quasi impossibile avere un quadro di quel che succede in tutto il paese. Ma dicevo, le notizie che giungono sono quelle di un paese per ora spaccato. La rivolta ha preso il sopravvento a Bengasi e comunque nella Libia orientale. L'attacco contro la capitale, contro il baluardo di Gheddafi, dovrebbe partire quando poi sarà il momento da lì, e il pericolo è che ci sia davvero una guerra civile, come del resto lo stesso Gheddafi e il figlio di Gheddafi avevano comunque minacciato. Questa situazione preoccupa molto le Nazioni Unite. C'è stato un incontro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, un lungo incontro. Sentiamo che cosa ha detto il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon subito dopo l'incontro. The Libyan authorities have been firing at demonstrators from the warplanes and helicopters. This is unacceptable. This must stop immediately. Ecco, Ban Ki-moon dice che i libici hanno sparato sui manifestanti dagli elicotteri, un comportamento inaccettabile che deve cessare immediatamente. C'è stata anche una presa di posizione formale del Consiglio di Sicurezza in cui si esprime con un voto all'unanimità gravissima preoccupazione per quello che sta capitando per le strade di Tripoli. Detto questo, resta il messaggio di Gheddafi, ascoltiamolo ancora. Muammar Gheddafi ma عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الرؤساء. معمر القذافي ليس رئيس. Sono un combattente, sono un rivoluzionario che viene dalle tende, morirò come un martire, combatterò fino alla fine, ha detto Gheddafi in questo suo messaggio. Eppure rendetevi conto che ancora non ho ordinato l'uso della forza. Chi crede che io abbia ordinato l'uso della forza non ha ancora visto nulla, perché quando lo farò, qualunque cosa in questo paese andrà a fuoco. Lo devo dire, piena queste dichiarazioni, piene di falsi storici, perché in realtà la rivoluzione libica non fu mai una rivoluzione vera e propria. Gheddafi era un giovane colonnello nel 1969 quando prese il potere e la sua fu un'operazione piuttosto elementare. Il re Idris, un re molto amato, molto vecchio, si era recato in Grecia per delle cure, per un periodo di soggiorno estivo, e Gheddafi con alcuni altri militari, Gheddafi era un giovane colonnello, aveva appena 27 anni, decise di fare il colpo di Stato, ma fu un colpo di Stato così, burletta, perché Gheddafi con quattro jeep, quattro militari, prese il controllo della televisione, del Parlamento, del Palazzo Reale. Nessuno sparò un colpo di pistola, non ci fu sicuramente una rivoluzione popolare forte come quella che abbiamo visto in questi giorni. E gli Stati Uniti, vorrei ricordarlo, gli Stati Uniti avevano una base militare, una base aerea molto importante alla Mellaha, la base Willows Field, che era la più importante base aerea del Mediterraneo americana all'epoca. Bastava che l'America mandasse due o tre elicotteri per probabilmente sgominare questo tentativo di colpo di Stato, ma non lo fecero perché la politica americana era sempre stata quella del non intervento. Dunque Gheddafi andò al potere in modo alquanto indolore, gli Stati Uniti se ne andarono e poi il resto è storia, fino all'attentato del volo Pan Am 103 che sappiamo fu una tragedia internazionale, un attentato la cui colpevolezza è chiaramente identificata con la Libia. That's the only way he's been able to maintain his own power position over 40 years now is the fact that they're a major energy producer. Nicholas Burns, ex numero due del Dipartimento di Stato nell'amministrazione Bush, è preoccupato per due ragioni. La prima è che secondo lui questo messaggio di Gheddafi nasconde in realtà l'ostinazione a mantenere il potere e la possibile deviazione di quello che poteva essere il risultato simile a quello che ci fu in Egitto. Sappiamo che le forze della resistenza avevano incoraggiato un passaggio dei poteri non dissimile da quello che sta avvenendo in Egitto, avevano chiesto che i militari, che l'esercito prendessero il potere in modo da garantire stabilità, da evitare che ci fossero scontri a fuoco contro i dimostranti e da poter garantire, dicevo, un passaggio dei poteri relativamente indolore con la scrittura di una nuova costituzione che prevedesse poi elezioni in tempi brevi. Ecco, questo secondo Burns non succederà perché Gheddafi ha dimostrato chiaramente di poter contare sulle sue forze. In una mentalità tribale, la posizione di Gheddafi è quella di difendere la sua posizione, la posizione dei suoi fedelissimi. Ha ingaggiato dei mercenari che sono giunti dall'Africa, non fidandosi ovviamente completamente dell'esercito, visto che lui stesso, venendo dall'esercito, aveva organizzato a suo tempo, 42 anni fa, il colpo di Stato, e dunque ha la sua milizia personale. Nel frattempo la crisi libica, come molti di voi avranno già ascoltato, ha colpito i mercati. Abbiamo visto che le perdite in borsa si sono estese agli Stati Uniti, che il primo giorno avevano reagito con nervi abbastanza saldi. Il prezzo del petrolio è schizzato addirittura ieri del 9%. La crisi continua e dunque è un momento molto, molto difficile, molto particolare. Il New York Times ha fatto una lunga analisi dei rapporti fra Italia e Libia, ha ricordato la partecipazione per esempio della Libia in Unicredit, ha ricordato i forti legami fra l'ENI e la Libia dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. Un terzo delle esportazioni libiche va all'ENI e dunque all'Italia. Insomma, questa situazione di legame fra Italia e Libia in qualche modo dal punto di vista economico comincia a diffondersi sul piano internazionale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Sull'onda del successo del loro ultimo album Brothers, che si è aggiudicato un Grammy Award, il duo dell'Ohio, The Black Keys, ha annunciato un tour estivo a partire da giugno. Vi avevo detto che vi avrei fatto sentire alcune delle canzoni che hanno vinto i Grammy Awards. Dunque dei Black Keys sentiamo Next Girl. But for the girl so she could love herself. Oh my next girl. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.